Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Priscilla. Bentornati su Valloon, questa è la vostra mezz'ora di storia su Radio Città Fujiko. La settimana scorsa siamo andati in un posto lontanissimo per noi, l'Argentina. Abbiamo parlato di dittatura e di torture, purtroppo. E questa settimana però torniamo in casa, perché dopo aver celebrato, tra virgolette, l'anniversario dell'89, ci cimentiamo in un altro anniversario, forse un po' più in ombra rispetto a quello dell'89, di cui non si parla d'altro da più o meno un paio di mesi. Ci siamo ricordati però nel nostro personalissimo calendario civile che questo periodo è anche l'anniversario del 1969, quel famosissimo, almeno per noi, autunno caldo che incendiò il 1969 e poi anche il 1970. Ci ricordiamo le tute blu, ci ricordiamo la mitica classe operaia che chissà se è andata in paradiso e ci ricordiamo, siamo ricordati dell'anno scorso, il 68. Non a caso tra il 68 e il 69 si configura in Italia una situazione carica di conflitti nei luoghi dell'istruzione, l'università, ma anche sui luoghi di lavoro, innanzitutto la fabbrica. La figura sociale appunto delle tute blu diventa emblematica, diventa simbolica, rappresentativa della massa dei lavoratori industriali, cioè l'operaio massa appunto, altamente intercambiabile, si diceva allora, e sfruttabile. La classe operaia va in paradiso è un film di Elio Petri che conosciamo del 1971 ed è il ritratto migliore della dimensione del lavoro, della protesta, dell'alienazione, del lavoro di fabbrica. Adesso a 40 anni di distanza, più di 40 anni, diventa anche per noi una fonte storica e noi ci sentiamo un pezzettino di una scena famosissima. Scusate signor Massa, una curiosità, ma voi come fate a coprire quei tempi? È che io in fabbrica mi annoio, mi rompo i coglioni. Allora lavoro, no? Lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto. La vita, traguardo, striscione. Tutti dentro in pista. Qui dentro siamo tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i teroni, come questo qui, Sicilia Orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanchi e io li frego sul remo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro, io sono concentrato, io ho una tecnica per concentrarmi, lei lo sa, mi fisso col cervello, penso a un culo, il culo di quella lì, qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Eccoci qua, dopo un pezzo un culo di Gian Maria Volonté, torniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko, siete ancora su Valloon e ci sono alcuni aspetti che descrivono in modo chiaro i caratteri dell'autunno caldo di cui parliamo oggi, l'autunno caldo del 1969. Un aspetto importante che emerge dallo stesso film di Petri è una sostanziale crisi della rappresentanza dei sindacati. A questa però si contrappone parallelamente la nascita di assemblee, di gruppi di lavoratori, di comitati di base e una rivendicazione generale dell'autonomia degli operai dalla rappresentanza sindacale. Quindi nel ciclo di lotte operaie che si aprono già nel 1968, esplodono nell'autunno caldo del 69, passano attraverso l'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, per poi declinare a partire dal 1972, emergono alcune rivendicazioni che non si limitano più a questioni di natura sindacale, perché alla base di queste rivendicazioni troviamo i diritti e la dignità dei lavoratori. Emergono poi nuovi protagonisti, che è un aspetto molto interessante di questo autunno caldo, cioè giovani operai che avviano, mettono in moto una costruzione dell'identità collettiva con i giovani studenti del movimento degli universitari e delle scuole superiori. Gli operai quindi a loro modo diventano attori della presa di parola collettiva del 68 e del 69. quando si parla di lavoro non si può non tirare in ballo il caro vecchio Bruce. E quindi ci spostiamo un attimo negli Stati Uniti e vi facciamo sentire una canzone stupenda che si intitola The River, tratta dall'album omonimo del 1980. Sì, è 1980. Bentornati su Balloon, questa è la vostra mezz'ora di storia su Radio Città Fujiko. Prima di tornare a parlare dell'autunno caldo e dopo aver sentito le note di The River di Bruce Springsteen, io vi ricordo che per risentire questa puntata in podcast potete andare sul sito www.radiovallun.info. Stiamo parlando, anzi stiamo celebrando in qualche modo l'anniversario dell'autunno caldo, ma celebrando l'autunno caldo parliamo di un tema che forse in prima battuta può anche non c'entrare con il 69, perché parliamo di precarietà. Precarietà è un tema attualissimo, ma scopriamo che è anche un tema degli anni 60. Affronteremo appunto questo tema con la nostra ospite che vi presentiamo tra poco. Ma dal New Jersey di Bruce Springsteen torniamo all'Italia del 1970. Dopo anni di lotte viene approvato lo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 20 maggio 1970, promossa dal ministro del lavoro Brodolini del PSI, con la collaborazione dei giuslavoristi ed ex ministri Gino Giugni e Carlo Donat Cattin, l'uno del PSI, l'altro dell'ADC. Lo Statuto dei Lavoratori è forse il momento di maggior successo nella difficile dialettica tra società e istituzioni. Un elemento inedito della legge è poi quello della dignità. La legge 300, lo ricordiamo per noi, ecco, che non siamo forse molto abituati al parlare di dignità accostata al lavoro, garantiva la stabilità e regolava le norme per la difesa e per la dignità dei lavoratori. L'approvazione dello Statuto dei lavoratori nel 1970, la stabilità divenne un obiettivo prioritario delle strategie politiche di organizzazioni e associazioni. Ma la ricercata e raggiunta stabilità della classe operaia italiana non fu percepita come un patrimonio comune negli anni 70. Sto citando direttamente dal libro Precari e precarie, una storia dell'Italia repubblicana, edita da Carocci nel febbraio di quest'anno e scritto da Eloisa Betti, che abbiamo qui con noi al telefono. Ciao Eloisa! Ciao! Ciao, ciao, ciao, benvenuta! Ciao. A Vallun. Eloisa Betti è docente di storia del lavoro all'Università di Bologna e coordinatrice del Feminist Labor History Group e del gruppo Genere e Lavoro della SISLAV. E nel suo lavoro di ricerca e nel suo libro che presentiamo qui oggi pone la questione della precarietà in una prospettiva storica, che è un aspetto molto interessante e ci aiuta a affrontare l'anniversario appunto dell'autunno caldo del 1969 da un punto di vista diverso, più originale e innovativo. Volevamo farti alcune domande. Allora, tu hai scritto che nonostante lo statuto, la legge 300 del 1970, il lavoro delle donne rimane in ombra. Quanto interesse ha mostrato la politica e i sindacati nei confronti dell'occupazione femminile in questo anno 1969? Diciamo che per rispondere alla vostra domanda bisogna fare un passo indietro e tornare al 1968. Certo, perché prendiamo la rincorsa. Sì. Nel 1968 c'è una grande conferenza nazionale proprio sul tema dell'occupazione femminile. Questa conferenza è l'esito di un percorso decennale, dall'ambito economico all'attenzione crescente sul tema del lavoro delle donne, e che negli anni 60 in particolare si era concentrata anche sul tema della qualità del lavoro delle donne e quindi del rapporto con la precarietà e del raggiungimento o meno della stabilità. Quindi nel 1969 le donne sono parte integrante delle lotte d'autunno caldo e lo fanno con una consapevolezza sicuramente maggiore di quello che poteva essere un decennio prima, perché un percorso importante di elaborazione e di rivendicazione era stato fatto proprio nel decennio che in qualche modo si chiude con l'autunno caldo, con il 1969. E va anche detto che l'attenzione della politica in quell'anno non è concentrata sul tema del lavoro femminile, si disputa ad esempio di una proposta, la cosiddetta proposta Pirelli, che riguarda il tema del part-time, uno strumento che si discute proprio in relazione al lavoro delle donne, perché si pensava potesse essere uno strumento di conciliazione appunto per chi ancora nella società italiana degli anni 60 era il depositario dei principali compiti di cura, come le donne. In quel contesto ci fu però un'opposizione a questa proposta e da lì nacque una discussione pluridecennale sul tema del part-time. Ma le donne nel 1969 ebbero un ruolo tutt'altro che secondario in molte delle lotte che si svolsero soprattutto all'interno degli stabilimenti industriali, e sono davvero numerose le fonti che testimoniano come ci furono scioperi, picchetti, come le donne furono parte di quelle imponenti manifestazioni che la cronaca ci ha consegnato, ma anche come avviarono un processo, sicuramente non da sole, ma con i colleghi maschi, di inchiesta e autoinchiesta relativo proprio anche alle condizioni di salute all'interno delle fabbriche. Un tema che è stato analizzato proprio in relazione all'autunno caldo, ma scarsamente indagato dal punto di vista della soggettività femminile. E invece in quell'anno e negli anni successivi il tema di come la donna vive l'ambiente industriale, quali sono gli effetti sul suo corpo, è uno dei temi molto importanti. Ma la soggettività femminile è al centro anche di numerose rivendicazioni che vanno proprio dal 1969 in poi ad indagare aspetti che intrecciano la condizione lavorativa dentro la fabbrica e fuori la fabbrica. E gli anni successivi, come noto, saranno gli anni delle grandi riforme, delle rivendicazioni, ma anche di aspetti meno noti come la grande battaglia sugli asili nido, a cui le lavoratrici proprio delle fabbriche nel 68, nel 69, nel 70, fino all'approvazione della legge del 1971, furono assolutamente protagoniste. Quindi la narrazione dell'autunno caldo, che è molto focalizzata sull'immaginario maschile, in realtà credo che oggi, alla luce degli studi sul lavoro femminile, possa essere in qualche modo anche ripensato e forse tinto di rosa. Ecco, infatti, Eloisa, ti stoppo per chiederti un'altra cosa che c'entra con quello che hai appena detto. Noi scopriamo dal tuo libro che appunto l'immaginario delle tute blu il 69 non è fatto solo dalle tute blu, ma c'è un sottobosco per l'opinione pubblica che scopriamo ancora adesso di lavoratrici, sostanzialmente. Nel caso della precarietà nella storia, nella storicizzazione della precarietà, quanto ci aiuta vedere anche la parte femminile? Cioè, questo problema come si pone, come ci consente di leggere, ecco, la precarietà nella storia? Beh, diciamo che il punto di vista di genere, il punto di vista del lavoro femminile è fondamentale per comprendere che la precarietà non è un'eccezione nella storia del capitalismo industriale o dell'Italia 8-900, ma è invece la norma, la regola, una norma che viene intaccata proprio dalle conquiste che culminano con lo Statuto dei diritti dei lavoratori del 1970. Ma era molto difficile trovare tracce di questa precarietà, perché era qualcosa che non era percepito come tale, non esistendo un'idea chiara della stabilità lavorativa. E sono le donne, le sindacaliste, le amministratrici, le rappresentanti dei sindacati femminili, anche lavoratrici, che quando descrivono le loro condizioni di lavoro o quelle appunto di chi rappresentano, spesso nominano il problema della precarietà e lo fanno in relazione al lavoro maschile, ma anche al lavoro di quelle e quelli che sono più tutelati. Dopo 1970, se la stabilità diventa qualcosa nell'immaginario collettivo più diffuso, quasi comune, resta il fatto che le lavoratrici sono ancora quelle che nel mercato del lavoro italiano degli ultimi anni 70 più precarie e che hanno anche maggiori possibilità di essere espulse dal ciclo produttivo e reindossare addirittura i panni della casalinga, definita negli anni 70 una lavoratrice a domicilio occulta. Questo è un grande dibattito che si consegna anche la purtroppo persistente marginalità delle donne nel mercato del lavoro italiano. Ciò non toglie tuttavia che dagli anni 60 e ancora di più negli anni 70 ci sia una forte rivendicazione da parte delle donne di stabilità lavorativa e anche di qualificazione del lavoro. Non ci si accontenta di un lavoro, ma si vuole che questo sia stabile e qualificato. Questi sono concetti che vengono espressi fino al 1965, ad esempio, da un'associazione femminile come l'Unione Donne Italiane. Ma sono concetti che vengono ripresi negli anni 70 dai movimenti neofemministi e dai collettivi studenteschi di ragazze che spesso mettono in evidenza un altro fatto, come la precarietà lavorativa si innesti su una condizione sociale della donna dove appunto i compiti di cura sono suo esclusivo compito e questo inficia, diciamo, la possibilità anche di avere una parità nel lavoro che consenta appunto di evitare, di ridurre, di ridimensionare questo problema della precarietà che è per lungo tempo strutturale. Ma il punto fondamentale è che la precarietà viene considerata un fenomeno nuovo a partire dagli anni 80 e sempre di più negli anni 90 perché smette di contraddistinguere solo la condizione delle donne, dei giovani, dei migranti e inizia a intaccare quella del cosiddetto maschio adulto breadwinner. E le storiche e le femministe hanno messo in luce proprio questo il motivo perché per lungo tempo si è pensato che la la precarietà fosse un fenomeno contemporaneo e non un fenomeno intrinsecamente legato alle caratteristiche del mercato del lavoro e del capitalismo industriale. Ecco, infatti ti volevo ritornare proprio su questo punto. Comunque grazie al tuo lavoro, insomma, abbiamo scoperto anche, perché poi anche noi siamo abituati a parlare di precarietà con molta facilità, come se fosse un concetto estremamente contemporaneo, però poi appunto leggendo il tuo libro ci siamo accorte anche che dagli anni 70, come poi stavi anche dicendo ora, dagli anni 70 emerge appunto con consapevolezza, più consapevolezza viene utilizzata la parola precarietà, emerge appunto un soggetto precario. Stavi già accennando appunto l'evoluzione di questo soggetto, di questa figura dagli anni 70 in avanti, allora ti vorrei chiedere in realtà che centralità oggi ha nel dibattito politico, perché rispetto poi a la centralità che aveva per esempio l'operaio Massa negli anni 60, vediamo, cioè, dal mio punto di vista per esempio c'è una forte, cioè non sono comparabili questi due soggetti, ok? Quindi in realtà ti chiedo appunto che destino ha nel dibattito politico, che futuro ha nel dibattito politico appunto il soggetto precario? Ecco, diciamo che la differenza fondamentale tra i precari e le precarie gli studiati e quelli degli anni 2000 è che quelli degli anni 2000 si riappropriano della condizione di precarietà, da un lato per denunciarla pubblicamente, dall'altro per far di fronte, combatterla, e questo è molto importante, perché se negli anni 50 e 60 non c'era una percezione diffusa della precarietà e il termine era scarsamente utilizzato, negli anni 2000 questo fenomeno diventa persuasivo, diventa caratteristica fondamentale dell'immaginario collettivo e in particolare una caratteristica proprio della descrizione e della cultura giovanile. E se noi pensiamo a questo, il ruolo della politica e il ruolo della precarietà nel dibattito pubblico è sicuramente presente, non è tuttavia centrale. Se noi guardiamo alle numerose manifestazioni, alle forme di lotta anche molto innovative che sono state promosse negli anni 2000 dai vari gruppi auto-organizzati di precari, ci rendiamo conto che rimangono comunque tasselli marginali di una discussione pubblica che a tratti si interessa del fenomeno, ma da un punto di vista politico non arriva a trattarlo e soprattutto a cercare di risolverlo. Ciò non toglie che, per quanto siano scarsamente conosciute, soprattutto nel breve periodo del secondo governo Prodi, tra il 2006 e il 2008, ci sono state numerose proposte di legge per arginare il fenomeno della precarietà. E sono proseguite negli anni successivi le manifestazioni e anche le carte di vario tipo che sono state proposte appunto da gruppi auto-organizzati fino a quella più recente appunto proposta dalla stessa CGIL come un tentativo in qualche misura di ripensare lo statuto includendo proprio anche i precari. Tuttavia questo problema continua a rimanere irrisolto, continua a non condizionare il dibattito pubblico come forse dovrebbe. I precari non sono una classe, non riescono a fare massa critica come invece la classe operaia poteva vantare nell'autunno caldo e negli anni successivi, perché sono gruppi estremamente eterogenei sul piano ormai anche dell'età, del genere, dell'appartenenza, anche della provenienza e anche delle qualifiche. I precari possono essere altamente scolarizzati o possono svolgere mansioni ordinarie. E sono anche frammentati in una miriade diversa di contrasti che spesso spinge anche a una competizione appunto a ribasso tra poveri e precari. Eloisa, senti, per chiudere con una battuta, io ti direi: chissà se la classe precaria andrà in paradiso, chissà. Senti, noi intanto qua è un inferno per intanto tutti. È un inferno, esatto. Noi ti dobbiamo salutare e grazie moltissimo per questa chiacchierata che chiaramente avremmo voluto fosse molto più lunga, ma io comunque ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici come si chiama il libro. Eloisa Betti ha scritto Precari e precarie, una storia dell'Italia repubblicana, edito da Carocci Editore nel 2018. Eloisa... 19. Vabbè. Eloisa, grazie, grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao, a presto. Ciao. Noi abbiamo quasi finito per questo pomeriggio, nella nostra consueta rubrica degli eventi della settimana sono un po' emozionata perché c'è un evento che ci coinvolge direttamente, ma su questo lascio la parola a Priscilla che è coinvolta il doppio di me. Grazie, io vi vorrei invitare, anzi vi vorrei costringere a... Costringere è il verbo esatto. Esatto, come siamo costretti a sanguinare, come disse il caro Marco Filo, voi siete costretti a venire alla serata che faremo di autofinanziamento di Vallun il prossimo 6 dicembre al Circolo Anarchico Berneri di Piazza di Porta Santo Stefano a Bologna, dove presenteremo alle 19 il libro di Alessia Masini, as known as Priscilla, cioè che vi sto parlando sono io, che si intitola Siamo nati da soli, punk rock e politica in Italia e in Gran Bretagna 1977-1984, edito per Pacini Editore nel 2019, cioè appena uscito. Con parlerò del mio libro insieme a Laura Carroli, ex batterista dei Raft Punk e Attack Punk Records di Bologna, più i compagni e le compagne del Circolo Anarchico Berneri che faranno un po' di memoria storica del 1979, e poi festeggeremo dalle 21 il compleanno dei Nabat. Infatti è un evento importantissimo. Allora, lo sappiamo che i Nabat hanno iniziato a suonare nel 1979, però ci eravamo dimenticati che hanno iniziato a suonare proprio al Berneri in quell'anno, e quindi loro sono felicissimi di accompagnarci in questa serata di autofinanziamento festeggiando i loro 40 anni di storia insieme. Quindi vi aspettiamo numerosissime numerosissime al Berneri il prossimo 6 dicembre. Esatto, venite perché ci beviamo due cose e parliamo di punk. Noi vi lasciamo poi in realtà con la musica e tra pochissimo va in onda Siamo Stufe, che è un brano scritto dal movimento femminista romano, e vi facciamo sentire l'interpretazione del disco Canti di donne e lotta del Canzoniere Femminista, che è un gruppo musicale del Comitato per il Salario e il Lavoro Domestico di Padova del 1975. E con questo è tutto, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao! Ci proibisce la contraccezione, noi siamo stufe di far guai.